Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È una nuova Eclettica, è l'ultima della settimana, l'ultimo giorno da passare assieme a Giulio Caperdoni, poi bisognerà aspettare lunedì, a meno che non decidiate di far partire il vostro lettore MP3 e ascoltarvi una delle trasmissioni in podcasting. Tutti i dettagli su come effettuare il download di questo podcasting da myspace.com/eclettica oppure da www.radiorockfm.com. Nel caso vogliate invece indicazioni dirette, scrivermi direttamente, l'indirizzo è giulio@radiorockfm.com, da utilizzare anche per iscriversi alla lista nera, cioè per ricevere settimana dopo settimana la playlist della trasmissione. Andiamo a incominciare. A Elliot avevo raccontato tutti i miei sogni di Rondua. Lui li ascoltava incantato ed era convinto che fossero responsabili del mio equilibrio interiore. La tesi del signor Elliot Kilbertus era che Cullen James era una persona interessante e vitale, che in quel momento della sua esistenza non era in grado di vivere appieno le proprie potenzialità, a causa del tran tran quotidiano impostole dalla piccola May. Di conseguenza, la notte davo libero sfogo al mio inconscio e le avventure di Rondua compensavano la tediosità delle mie giornate. Una teoria plausibile e tutto sommato lusinghiera, che venendo da una persona che conosceva ogni minimo dettaglio della mia esistenza, mi rassicurava molto. Per di più, non era poi tanto diverso da quello che mi aveva detto il dottor Rottensteiner qualche mese prima. Se i miei sogni continuavano a non avere conseguenze negative, non dovevo dare loro troppo peso. Era un po' come quando si scorge una miriade di minuscoli granelli di polvere volteggiare davanti agli occhi, e basta seguirli con lo sguardo per continuare a vederli molto, molto più a lungo di quanto non accada se invece li si ignora. E se Rondua fosse scomparsa all'improvviso e io avessi scoperto con una morsa allo stomaco che quei sogni mi mancavano maledettamente? Possedere qualcosa di unico è un modo per sentirsi speciali. Questo era ancora Ossi di Luna di Jonathan Carroll. They told me about the strawberry fields, living in a mixtape and picking all the fruit that it yields. I made a tape so you could see it was real. I dubbed you a copy just so you could see how I feel. Bye. The Lorient onto the tracks here on the spur, right by the old abandoned silver mine. The switch track is where the spur runs off the main line 3 miles out to Clayton Shonash Ravine. The train leaves the station at 8 Monday morning. We'll stop it here, uncouple the cars from the tender, throw the switch track, and then we'll borrow the locomotive and use it to push the time machine. According to my calculations, we'll reach 88 miles per hour just before we hit the edge of the ravine, at which point we'll be instantaneously transported back to 1985 and coast safely across the completed bridge. Perché la plastica non vince. Abbiamo aperto con la formazione di Philadelphia di nome Creeping Weeds con I'm a Donkey for Your Love. Poi è stata la volta di Mondo Madre, quello che è il primo album con lo pseudonimo Nano da parte di Emanuele Lapiana, che ha abbandonato invece il suo gruppo originario C.I.O.D. In entrambi i casi comunque i due nomi sono puntati, ogni lettera è seguita dal punto. Mondo Madre che esce per la Fosbury, dal quale ci siamo ascoltati Canzone di Cemento Armato. Invece Little Kingdom è il titolo del nuovo album per la formazione di San Francisco di nome C-Tay, e Little Kingdom è anche la traccia che ci ascoltiamo da questa prova, che è pubblicata dalla Dead Oceans. We'll be right back. Era la prima volta che vedevamo l'oceano dal giorno del nostro arrivo a Rondua. Una rosea distesa d'acqua e di onde che frangendosi si coprivano di spuma gialla. Colori un po' inquietanti, come di sogni infantili andati a male. Pepsi era accanto alla nostra barca, un cappello di feltro rovesciato grande come una vasca da bagno, che rideva a crepapelle. Era freddo lì accanto all'acqua, tanto che persino la mia ombra tremava tutta. Erano passate alcune settimane da quando avevamo visitato Kempinski e Ofirzik e avevamo combattuto contro il verme danzante. Felina, dopo essere stata salvata da Pepsi, era morta in silenzio una notte non molto tempo dopo. Mr. Tracy e Marzio avevano vegliato tutta la notte al suo fianco. All'alba, il cane nero e gigantesco ci aveva svegliato lanciando ululati così tristi e incantevoli che sembravano affiorare dalle corde di un violoncello antico. Non fu necessario seppellire Felina, perché svanì non appena Pepsi le posò i tre ossi, uno sulla testa, uno sul cuore e uno sulla gamba posteriore sinistra. Dopo pochi minuti, là dove avevamo visto il lupo per l'ultima volta, non restarono altro che gli ossi. Marzio disse che il vento avrebbe trasportato il canto di Mr. Tracy alla famiglia di Felina, che così avrebbe appreso della sua morte. Riprendemmo la nostra marcia verso il mare in quattro, sentendo ogni giorno la mancanza della gentile presenza di Felina accanto a noi. Un pensiero continuava a tornarmi in mente come un messaggio importante dal profondo. Non c'è pace, solo riposo. Non avevo idea di cosa potesse voler dire. Questo era ancora Ossi di Luna di Jonathan Carroll. We'll be right back. What does this mean? Point of no return. That's our fail-safe point. Up until there, we still have enough time to stop the locomotive before it plunges into the ravine. But once we pass this windmill, it's the future or bust. Just wash me against the wall with your